Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Una buona serata quando sono le 21:02 dalla redazione da Anrita D'Ambrosio. Un grazie alla nostra Roberta Giordano che tornerà con voi giovedì. Un ringraziamento in redazione a Cristian Goldoni e Mariella Roberto ed in regia a Pietro Lacorte. Possiamo cominciare partendo dai nostri titoli. L'inchiesta sulla corruzione. Movimento 5 Stelle e SEL presentano una mozione di sfiducia per il ministro Lupi. La Lega per Alfano. Polemiche a distanza oggi tra l'Associazione Nazionale Magistrati e Renzi. Del Rio chiarisce: dimissioni di Lupi, non è indagato ma credo stia riflettendo. E poi c'è Israele al voto, grande affluenza alle urne, sono stati diffusi da pochissimo gli exit poll. Un'altra giornata di scintille tra Fiom e CGL, nessun chiarimento dunque oggi tra Landini e la Camusso. E poi c'è il calcio con la Champions, l'Atletico rischia contro il Bayer Arsenal col Monaco a caccia dell'impresa. Allora, una buona serata in primo piano subito in Israele, dove lo avete sentito si sono chiusi per l'esattezza da 3 minuti i seggi di un'elezione molto combattuta e ad alta tensione. Ci sono già i primi exit poll, ci aggiorna in diretta l'inviato del Sole 24 Ore Ugo Tramballi. Ugo. Sì, buonasera, sono appena usciti almeno uno dei 3 canali televisivi israeliani, ha diffuso per primo alcuni dati Channel 2. In realtà il Likud è in testa per 28 seggi su 27 su laburisti e sionisti. In realtà tutti e due partiti, i due partiti principali, prendono più voti di quanto i sondaggi avevano previsto. Nonostante questo, però, erano i sionisti uniti, cioè i laburisti, che dovevano essere in vantaggio. Naturalmente stiamo solamente parlando di exit poll, ci sarà tutta la notte di spoglio e potrebbero qualche cosa potrebbe cambiare, ma sostanzialmente questo è il punto: i due partiti principali restano vicini e difficilmente sarà possibile riuscire a fare un governo stabile. Grazie al nostro Ugo Tramballi, che ritroveremo tra breve per ulteriori dettagli. Adesso ci occupiamo delle polemiche politiche della bufera che sta travolgendo il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi dopo la pubblicazione delle intercettazioni relative all'ultima inchiesta, quella su tangenti e corruzione. Non c'è ancora una data, ma Maurizio Lupi riferirà in Senato sul suo coinvolgimento nell'inchiesta di Firenze. Il ministro dei Trasporti, che non è indagato, respinge ogni addebito, ma è sempre più sotto assedio, e non solo da parte dell'opposizione. I suoi rapporti con i principali indagati imbarazzano infatti anche governo e maggioranza. Dall'inchiesta emergono elementi che destano inquietudine e preoccupazione. È necessario che il ministro chiarisca alcuni aspetti, afferma il presidente del PD Orfini, cauto anche il sottosegretario Della Rio, secondo il quale comunque Lupi, non essendo indagato, non ha l'obbligo di dimettersi. Non ho gli elementi per dare prematuramente il dire sì, si deve dimettere o no in questo momento. Credo che però una valutazione da parte sua sia in corso, quindi questo dipende da lui, non dipende da me. Vanno invece all'attacco le opposizioni. SEL e Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Lupi. Anche la Lega Nord preannuncia una sua mozione di sfiducia, ma per il ministro dell'Interno e leader del nuovo centrodestra Angelino Alfano, sul quale, secondo il Carroccio, ricadono le responsabilità politiche della vicenda. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è un altro fronte caldo, lo avete sentito nei titoli, che ha visto contrapposti oggi l'Associazione Nazionale Magistrati ed il Premier Renzi. All'ombra dell'ultima tangentopoli italiana si consuma pure l'ennesimo scontro tra magistratura e politica, colpi di accuse e rivendicazioni intorno alla lotta alla corruzione, in un botta e risposta tra l'ANM e Palazzo Chigi. È Rodolfo Sabelli, presidente del sindacato delle toghe, a lanciare per primo il sasso dalle telecamere di Uno Mattina. Uno Stato che si rispetti dovrebbe prendere a schiaffi, diciamo virtualmente, sì, ovviamente, i corrotti e accarezzare i magistrati. Purtroppo in Italia è accaduto l'esatto contrario. Parole severe, gravide ancora del risentimento della categoria per l'approvazione della legge sulla responsabilità civile delle toghe prima del taglio delle ferie. Parole che provocano la reazione immediata e piccata del Presidente del Consiglio. Lo Stato non è quello che dà gli schiaffi ai magistrati e dà le carezze ai corrotti. Sostenere questo è triste. triste e ingiusto, rincara Matteo Renzi, che prima dal palco della scuola di polizia, poi su Twitter, rivendica gli sforzi dell'esecutivo nella lotta alle tangenti, dall'autority di Cantone messa in campo per fare pulizia, casa per casa, appalto per appalto, si infervora il premier, all'allungamento della prescrizione, all'aumento delle pene. Dopo vari rinvii, il DDL anticorruzione dovrebbe arrivare giovedì per poche ore in aula al Senato, in un rinnovato clima di scontro all'ombra dell'ultima tangentopoli italiana. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto le inchieste vanno avanti, c'è un nuovo fronte giudiziario che ci porta all'estero con l'arresto a Bruxelles del presidente di Federacciai. E l'inchiesta che ha trascinato in carcere Antonio Gozzi, numero uno di Federacciai e presidente di Duferco e dell'Entella Calcio, aveva preso il via dopo la misteriosa scomparsa di un contabile del gruppo svanito nel nulla durante una missione in Congo. Dagli accertamenti era emerso il ruolo del sindaco di Waterloo ed ex ministro Serge Kubla, titolare di una società maltese dalla quale sarebbero transitati 240.000 euro versati dal gruppo Duferco, ufficialmente per avviare imprese commerciali in Congo. Secondo i giudici in realtà si sarebbe trattato di tangenti pagate a funzionari dello Stato africano per ottenere appalti nel settore del gioco d'azzardo e dell'attività metallurgica. Antonio Gozzi e il suo collaboratore Massimo Croci sono stati posti in stato di fermo ieri pomeriggio al termine dell'interrogatorio al quale si erano presentati spontaneamente. L'accusa è corruzione. Venerdì saranno interrogati dal giudice secondo il quale il provvedimento si è reso necessario per il rischio di inquinamento delle prove. In una nota Duferco ha fatto sapere che Gozzi è del tutto estraneo alle accuse contestate e il sito dell'Entella ha dato appuntamento al suo presidente sabato al comunale di Chiavari per la partita contro il Catania. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E il dibattito sulla corruzione va avanti. Noi abbiamo raccolto il parere del procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco, già titolare e coordinatore per la Procura di Napoli di indagini che hanno avuto grande eco in tema di corruzione nella pubblica amministrazione e in politica. Greco auspica meccanismi legislativi simili a quelli previsti per la lotta alla criminalità organizzata. Lo ha intervistato Laura Viggiano. La corruzione è sicuramente una grandissima priorità, quindi l'intervento recentissimo e la volontà del legislatore di intervenire su questo punto chiaramente è un qualcosa di estremamente positivo. La mia opinione personale è che si può incidere in maniera effettiva sulla corruzione se si introducono dei meccanismi simili a quelli introdotti per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare una legislazione in qualche modo premiale che possa nella maniera più idonea agevolare le denunce delle persone, dei pubblici ufficiali corrotti. Questo ha rappresentato un meccanismo vincente sia nella lotta al terrorismo, che era una priorità, sia nella lotta alla criminalità organizzata, e penso che sia giunto anche il momento di pensare seriamente a questa possibilità. Botta e risposta a Landini Camusso. L'incontro di stamattina a Roma non ha rasserenato il clima nella CGIL. Io ho chiarito quello che dovevo chiarire. Mi pare che bisogna smetterla di fare furbi. No? Nuovo botta e risposta a Landini Camusso. Nuove tensioni in casa CGIL. L'atteso faccia a faccia non ha fatto altro che certificare le distanze tra i due leader sindacali su quella coalizione sociale lanciata sabato dal leader della Fiome per raccogliere un dissenso anti-Renzi a sinistra del PD, iniziativa fortemente contestata dal segretario della CGIL. Ma Landini ribadisce di non avere interessi personali, non si tratta di un partito, e invita la CGIL a costruire insieme la coalizione sociale. La coalizione sociale non è né la formazione di un partito né la sostituzione di un partito. Parole che non convincono Susanna Camusso. Basta ambiguità, il bisogno di politica di Landini non può stravolgere la nostra natura. Si dica insieme che l'autonomia della nostra organizzazione, di tutte le sue strutture, è fondamentale e quindi non si è soggetti promotori di nessuna forma né di movimento né di nessun genere, perché ci concentriamo, come è giusto e doveroso che sia, sul tema dell'unificazione del mondo del lavoro. Una tensione che potrebbe acuirsi in vista della manifestazione contro il Jobs Act del 28 marzo. Landini deve chiarire la natura sindacale non politica dell'evento, avverte Susanna Camusso. In caso contrario, difficilmente quest'ultima potrà partecipare. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca, torniamo a parlare della TAV. Arrendetevi e vi lasceremo portar via le vostre cose. La prima risposta del movimento che si oppone all'alta velocità in Val di Susa arriva dal sito notav.info. È la replica piuttosto decisa alla proposta lanciata ieri da TELT, la nuova azienda che gestirà la realizzazione della Torino-Lione. TELT ha riunito il suo consiglio di amministrazione per la prima volta e ha lanciato un'ipotesi di accordo con chi contesta l'opera. Voi fermate le azioni violente, noi ritireremo ove possibile le denunce o ridurremo le richieste di risarcimento. Il direttore generale Mario Virano. Iniziamo una nuova fase di dialogo. Su questo dialogo chiediamo molto poco e offriamo qualcosa di significativo. Tra le offerte, la possibilità di reinvestire sul territorio parte dei fondi recuperati dalla gestione della sicurezza. Ma la risposta, come si diceva, è stata netta. Non ci può essere nessuna pacificazione con chi sta distruggendo un territorio e saccheggiando le casse pubbliche, si legge ancora sul sito. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intervista di Nicky Vendola al settimanale Chi. Tra due mesi cambio vita, vorrei sposarmi e rifletto sulla paternità. Voglio poter dire che a 54 anni mi voglio sposare con il mio compagno. Lo aveva già annunciato 2 anni fa, ma ora i fiori d'arancio per Nicky Vendola, fra breve ex governatore della Puglia, visto che a maggio scadrà il suo mandato, potrebbero essere davvero vicini. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, il leader di SEL ha raccontato che dopo 10 anni al cardiopalma, al timone della Puglia, da maggio tutto cambierà e ha annunciato che se il suo compagno Ed Testa sarà d'accordo si sposeranno, solo però se lui glielo chiederà. Non si trasferirà invece in Canada perché per un uomo del sud come lui fa troppo freddo. Nel progetto di vita prospettato da Vendola, sempre nell'intervista pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, potrebbe esserci anche la paternità. Rifletterò se affrontarla o no. È un pensiero che, confessa il leader di SEL, riposa in un angolo della mia vita ma che ho sempre rimandato. E su questo tema inevitabile un riferimento alla polemica scatenata dagli stilisti Dolce Gabbana. A proposito della loro difesa della famiglia tradizionale contro la quale si è scagliato con forza il musicista Elton John, Nicky Vendola ha detto: credo che dall'alto del loro rango sociale non comprendano davvero che cosa vuol dire vivere in un paese dove l'omofobia uccide e il deficit di diritti pesa su molte vite. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio. Abbiamo scoperto nel servizio della nostra collega che ha 54 anni e li porta tra l'altro molto bene, Nicky Vendola ne compie molti meno oggi e quindi cominciamo con gli auguri il nostro Dario Ricci per gli aggiornamenti sulle due partite di stasera di Champions League. Dario. Troppo buona Narita, con gli auguri diciamo piuttosto che al compleanno anche di grandi nomi del calcio, sicuramente più celebri del sottoscritto come Giovanni Trapattoni. Però vedi che il calcio c'era, cioè c'era comunque. Giovanni Trapattoni, il Cino Recoba, insomma facciamo soprattutto gli auguri a loro che hanno regalato tante emozioni. Io piuttosto vi regalo degli aggiornamenti perché siamo al 30° del primo tempo nelle due gare che oggi eleggono altre due formazioni qualificate ai quarti di finale. Bene, a Madrid l'Atletico è in vantaggio per 1-0 sul Bayer Leverkusen, decide la rete al 26° di Suarez, deviata da un difensore tedesco, 1-0 che fa il paio con l'1-0 per i tedeschi all'andata e quindi stando così le cose supplementari in vista, ma la gara è davvero ancora lunga. Alla mezz'ora invece a Monaco 0-0 tra il Monaco e l'Arsenal, risultato nettamente a favore dei francesi che all'andata hanno sbancato Londra per 3-1. Quindi riepilogando, 30° di gioco a Madrid dove l'Atletico è vantaggio 1-0 sul Bayer Leverkusen e 31° in questo istante a Monaco, 0-0 tra Monaco e Arsenal. Grazie al nostro Dario Ricci che ritroveremo più tardi, ora ci aggiorniamo su strade e autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:17, i nostri titoli tangenti, nuovo scontro tra Renzi e l'Associazione Nazionale Magistrati, bufera sul ministro Lupi, le opposizioni chiedono le sue dimissioni, manette intanto a Bruxelles il numero uno di Federacciai per tangenti in Congo, lui nega. Duello all'ultimo voto in Israele, diffusi gli exit poll, testa a testa tra Herzog e Netanyahu. Landini non convince la Camusso, niente ambiguità sulla politica, il leader della FIOM alla numero uno della CGIL dice attivatevi invece per la coalizione sociale. E poi lo avete sentito, il sogno di Vendola, fra 2 mesi cambio vita, mi sposo e rifletto sulla paternità. Questi dunque i nostri titoli, ma in primo piano c'è la corruzione. Non sono sola, mi ha raggiunto e la ringrazio la nostra Raffaella Calandra. Ciao, ciao Raffaella. Marita, ciao. Allora, tra pochissimo, è già in collegamento con noi, lo ringraziamo subito, c'è Maurizio Carbone con noi, il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie a lei per essere qui con noi. Raffaella, gli facciamo subito ascoltare le due voci, la voce di Sabelli, il presidente dell'ANM, questa mattina ad Uno Mattina, e la replica del premier Renzi. Sentiamole. Uno Stato che si rispetti dovrebbe prendere a schiaffi, diciamo virtualmente, sì, ovviamente, i corrotti e accarezzare coloro che svolgono il controllo di legalità, cioè i magistrati. Purtroppo in Italia è accaduto l'esatto contrario, cioè i magistrati sono stati virtualmente presi a schiaffi e i corrotti accarezzati. È una frase falsa, naturalmente, è una frase che è ingiusta, è una frase che fa male, ma non per il governo di turno, non è un problema che riguarda il governo di turno, ma riguarda l'idea stessa delle istituzioni. Quando si parla delle istituzioni, lo Stato non è quello che dà gli schiaffi ai magistrati e dà le carezze ai corrotti. Questo dunque il botta e risposta, dottor Carbone, insomma polemiche che vanno oramai avanti da un bel po', queste a distanza tra l'Associazione Nazionale Magistrati ed il premier Renzi, hanno fatto seguito alla riforma della responsabilità civile. Sì, guardi, in realtà è proprio così, il ragionamento del presidente Sabelli in realtà stamattina era ancora più basso, perché noi magistrati è da ormai 20 anni che siamo sottoposti a una, direi quasi scientifica, propaganda di delegittimazione nei nostri confronti, utilizzata attraverso i mezzi mediatici e soprattutto con messaggi negativi nei nostri confronti che sono stati più volte mandati in maniera molto chiara dai rappresentanti di altre istituzioni. Ed è questo che bisognerebbe stupirci, di quello che è avvenuto in questi anni, evidentemente. E anche quello che sta avvenendo ultimamente indica che una diversa velocità nella giustizia. In questi mesi abbiamo assistito ad provvedimenti che sono stati emanati con larghissime maggioranze, chiaramente punitivi nei confronti dei magistrati e indicati tra l'altro come tali, e basta ricordare lo slogan "chi sbaglia paga", più volte indicato e evocato contro noi magistrati. Segretario, quindi diciamo esplicitamente, gli schiaffi sono l'approvazione della legge sulla responsabilità civile? Ma guarda, gli schiaffi sono soprattutto i messaggi che sono stati mandati, le leggi che già di alcune leggi come quella della responsabilità civile, dal contenuto che dicevo prima punitivo, che noi contestiamo, ma soprattutto dai messaggi con i quali sono stati accompagnati, gli slogan propagandistici, chi sbaglia paga, indicare noi magistrati come responsabili dei mali della giustizia. Se lei va oggi sul sito della Presidenza del Consiglio trova ancora una slide in cui c'è scritto meno ferie ai magistrati, processi più veloci. E quella è stata un'altra polemica forte che avete avuto. Una indicazione che i mali della giustizia sono siamo noi magistrati, e questo evidentemente non lo accettiamo, è intollerabile, e invece verifichiamo che c'è ancora una volta timidezza, una lentezza nell'approvare quelle leggi che l'Europa e i cittadini ci chiedono per rendere più efficace il contrasto alla corruzione. Posso chiedersi, ha l'impressione che stia aumentando il fronte dei più arrabbiati, diciamo così, all'interno delle toghe, pronti eventualmente anche a rivedere la idea di uno sciopero che per ora è stato accantonato, però c'è una base che preme verso uno sciopero, sta aumentando la porzione dei magistrati che sarebbe pronta anche ad una azione, diciamo, di protesta? Ma guardi, noi lo sciopero come ANM l'abbiamo finora, ogni proposta di sciopero l'abbiamo respinta come maggioranza dell'ANM, lo riteniamo un passo, una forma di protesta in questo momento e su questi argomenti è sbagliata, che soprattutto non verrebbe capita, oltre che uno strumento soprattutto inutile. Noi abbiamo oggi necessità, e lo stiamo facendo da tempo, di far emergere quelle che sono le lacune e le mancanze di queste riforme. Sulla giustizia si parla e si è parlato soltanto attraverso annunci o con riforme che sono andate verso la modifica dello impeius, dello status di noi magistrati. Dobbiamo invece noi chiedere risorse, chiedere riforme che rendano più efficace e più veloce il processo, chiediamo cancellieri, oggi in Italia nei tribunali italiani mancano 9.000 cancellieri, una vera e propria emergenza alla quale per il momento si è annunciato soltanto 1.000 persone, ma non come nuovo reclutamento, ma come utilizzo in mobilità di dipendenti da altre amministrazioni, davvero una goccia nell'oceano. E allora vediamo che queste risposte concrete, come anche appunto per la lotta alla corruzione, come ha evidenziato anche il Presidente del Senato, tardano, la maggioranza non trova un'intesa e invece si compatta in misure che sono, ripeto, punitive nei nostri confronti. Ed è questo che stamattina ha voluto esprimere in maniera efficace ancora una volta l'ANM attraverso le parole del suo Presidente. Però, dottor Carbone, devo farle un'ultima domanda. Come si esce adesso da questa polemica? Perché va avanti da un bel po'. E come ne usciamo allora? Ma guardi, noi non vogliamo fare polemiche e cerchiamo di rifiutarle. Devo dire anche oggi, insomma, la risposta del presidente Renzi è stata da questo punto di vista molto forte, ma noi crediamo che sia il momento e speriamo ancora una volta che questo sia il momento giusto, perché pensavamo che dopo 20 anni si potesse e si dovesse voltare pagina, e finora le nostre aspettative sono state in larga parte deluse. E chiediamo invece che le istituzioni debbano collaborare di fronte a fenomeni di corruzione così dilaganti che stanno interessando il nostro paese. Le istituzioni devono dare insieme una risposta che sia di coraggio e di forza determinazione, di forte determinazione per combattere questi strumenti. Vedere invece che si litiga tra le istituzioni, evidentemente ancora una volta rischia di essere un vantaggio per chi delinque, per chi corrompe. Grazie al dottor Maurizio Carbone, segretario generale dell'ANM, per questo chiarimento. Chiaramente noi cittadini questo ci aspettiamo, cioè che le istituzioni possano collaborare per combattere la corruzione. Queste inchieste ci lasciano chiaramente attoniti. Grazie alla nostra Raffaella Calandra per essere stata con noi. Però di corruzione parliamo ancora qualche minuto e lo facciamo con Nadia Fiorino, docente di scienza delle finanze all'Università dell'Aquila e autrice insieme ad Emma Galli del libro La corruzione in Italia, edito da Il Mulino. Buonasera. Buonasera, dottoressa. Lei ha sentito anche un po' queste polemiche, che, come dicevo, insomma, è una polemica che va avanti da un po' con le inchieste della corruzione che imperversano. Lei nel suo libro ha analizzato il fenomeno della corruzione e i dati, francamente, in suo possesso sono molto preoccupanti, anche quelli più recenti? Sicuramente sì, l'indicatore più noto, che è il Corruption Perception Index, elaborato dalla ben nota Transparency International, classifica e segnala, meglio ancora, che dal 1995 al 2013 l'Italia si è attestata costantemente su valori estremamente bassi dell'indice e non ha mai superato la sufficienza, e nel 2013 addirittura al 69° posto dietro paesi come la Turchia o come Cuba. La posizione dell'Italia è anche altrettanto, diciamo, preoccupante se la si considera nel contesto europeo, perché mentre i paesi dell'Europa del Nord sono caratterizzati a valori molto elevati, tra i più elevati al mondo, e occupano quindi costantemente le prime posizioni della classifica, i paesi dell'Europa meridionale, l'Italia e la Grecia in particolare, presentano valori inferiori alla sufficienza. Se poi si guarda agli indicatori cosiddetti oggettivi, cioè alle denunce, al dato denunce per corruzione, al dato fornito dall'Istat per l'Italia, si vede che la corruzione ha un andamento crescente, con una sola battuta d'arresto sui dati che vanno dai primi anni 60, dal 63 fino al 2011, l'ultimo anno disponibile. E forse dovrebbe aumentare poi questo numero di denunce, ovviamente, per cercare di limitare il fenomeno, perché insomma noi cittadini vediamo che i casi di inchieste continuano ad aumentare e alla fin fine, come lei scrive anche nel libro, incidono sul processo di crescita del paese in maniera determinante. Decisamente, è l'effetto per eccellenza della corruzione, cioè l'effetto per eccellenza della corruzione è sulla crescita del paese, sicuramente. Quali sono le ricette che voi indicate nel libro? Sinceramente proporre risposte normative ed istituzionali adeguate in relazione ad un fenomeno estremamente complesso, quale il fenomeno corruttivo, richiede a nostro avviso, ed è questo forse quello che vorremmo fare passare appunto nel libro, richiede la necessità di comprendere, di soffermarsi a comprendere sia le cause, che sono diverse, sia gli effetti sulle istituzioni, sia i costi sociali ed economici. Oltre che naturalmente seguire un approccio, ed è questo quello, l'approccio seguito sostanzialmente anche dalle istituzioni internazionali, un approccio di tipo integrato in cui misure di repressione si accompagnano, sono complementari a misure di tipo preventivo, cioè misure che sono dirette e legate, diciamo, al processo penale, al miglioramento del processo penale, alla detenzione, alla sanzione, oltre che agli investimenti nelle forze dell'ordine, si devono integrare con misure che sono invece dirette a limitare ex ante la diffusione e più ancora la persistenza del fenomeno corruttivo. Un intervento mirato, insomma, perché il fenomeno è talmente diffuso che se non c'è un intervento mirato, sì, non riusciamo. Mirati alle cause e dal diverso peso con cui le diverse cause concorrono a spiegare il fenomeno. Grazie, io la ringrazio di essere stata con noi, ringrazio la professoressa Nadia Fiorino, docente di Scienza delle Finanze all'Università dell'Aquila. Noi ci fermiamo ancora per un po', poi torniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:36 minuti, una buona serata, le notizie in primo piano, l'inchiesta sulla corruzione, polemiche a distanza tra l'Associazione Nazionale Magistrati e Renzi, il Movimento 5 Stelle e SEL intanto presentano una mozione di sfiducia per il ministro Lupi, Delrio dimissioni, non è indagato ma credo stia riflettendo. Israele, le urne si sono chiuse da 36 minuti per l'appunto, gli exit poll parlano di un testa a testa tra Netanyahu ed Erdogan. La cronaca con un'ultima ora, due persone sono state trovate morte all'interno di un'auto nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone, si tratterebbe di una donna e di un uomo di giovane età. Un'altra giornata di scintille tra Fiom e CGL, nessun chiarimento tra Landini e la Camusso. Queste dunque le nostre notizie in primo piano, ma noi torniamo a collegarci con Israele, con il nostro Ugo Tramballi. Buonasera Ugo. Buonasera. Ugo, allora, prima abbiamo parlato del primo exit poll che parlava di questo testa a testa e insomma era anche un po' un exit poll di sorpresa, poi ne sono stati diffusi altri. Sì, ma sostanzialmente dicono tutti la stessa cosa, giusto per darti un'idea così del polso della situazione, qui al quartier generale del Partito Laburista come al quartier generale del Likud la gente comincia già ad andarsene perché sanno che non ci sarà una festa particolare né in un partito né nell'altro. Certo, in qualche modo di Netanyahu vince, nel senso che era ancora fino a poche ore fa era dato perdente con 4-5 seggi di scarto, però se né l'uno né l'altro in realtà può dichiararsi vincitore, non è difficilmente lo spoglio dei voti, con lo spoglio dei voti domani mattina ne indicherà uno chiaramente, forse magari qualcuno, uno troverà sul 28-27, in questo momento secondo gli agricoltori tra il Likud 27 laboristi, domani potrebbe essere il contrario, ma sostanzialmente il risultato è assolutamente, insomma, adesso sociale. Il problema è che non si riesce a formare un governo. Le ipotesi che si presentano in questo momento sono due. La prima, che è quella che invoca il Presidente della Repubblica, tentativo di formare un governo di unità nazionale con laburisti e Likud insieme e tutti gli altri partiti che ci saranno. Il problema è che sembra semplicemente un congelamento dei problemi del paese, perché le posizioni dall'economia alla pace con i palestinesi sono così opposte che difficilmente un governo di unità nazionale potrebbe prendere una qualsiasi decisione, a parte decidere di cambiare le luci alle strade. Ma l'altra opportunità invece è quella, come già prevede la legge, che affidato prima a uno l'incarico di formare il governo, dopo 6 settimane non ci riesce, tocca l'altro, in sostanza a settembre si potrebbe già tornare a votare. Ecco appunto, quindi ancora uno stallo. Senti, oggi era stata una giornata proprio a nervi tesi perché era stata bloccata la conferenza stampa di Netanyahu, Herzog aveva parlato di panico imbarazzante, invece poi insomma stando a questi dati, come dicevi tu insomma. Sì, ma infatti Netanyahu ha deciso di tirare pugni a destra e a sinistra. quando due giorni fa si è accorto che tutti i sondaggi lo davano perdente, ha cominciato a tirare fendente, ha cominciato a dire che non avrebbe mai fatto, se gli vince lui non farà mai la pace con i palestinesi, cioè non farà mai nascere uno Stato palestinese, ha cominciato ad accusare come Putin, come il generale Al-Sisi, gli avversari di essere sostenuti economicamente da delle lobby strane, quando lui invece è appena ritornato da Washington, dove i repubblicani gli avevano organizzato al congresso un turbo comizio, quindi troppo parlare lui di lobby mi sembra un pochettino fuori loro, ma comunque, e poi soprattutto ha mobilitato i suoi dicendo che gli arabi stavano andando in massa alle urne, si parla che lui si riferiva agli arabi israeliani che sono il 20% della popolazione. Infatti l'elemento veramente nuovo e forse unico veramente interessante di questa elezione sono i 13 seggi, parliamo sempre di numeri sui 120 seggi, quindi come vedete questo è un po' proporzionale puro che impedisce a chiunque di poter governare. Comunque dicevo, il partito degli arabi, la lista degli arabi, la prima volta i quattro partiti arabi che prima erano insignificanti si sono coalizzati, sono diventati il terzo partito di Israele, il terzo con 13 seggi. Ecco, quindi questa è l'unica vera novità, ma non sarà in grado di condizionare in nessun modo la questione e le problematiche del paese, anche se sono, ripeto, un fatto nuovo che incideranno sicuramente sulla... Tecnicamente in realtà il centro-sinistra sarebbe in grado di fare un governo, ma dovrebbe inserire anche i voti degli arabi, e che mi sembra abbastanza complicato. Grazie al nostro Ugo Tamballi per averci spiegato precisamente la situazione. Noi da Israele ci spostiamo in Europa. Europa 24 notte. Parliamo di una raccomandazione che è arrivata oggi dalla Commissione Europea, quella di eradicare, che significa sradicare in realtà, tutti gli ulivi e gli altri alberi attaccati dal batterio Xylella nel Salento e soprattutto nella provincia di Lecce, in Puglia. Di ecatombe, e adesso gli chiediamo perché, ha parlato il collega, che è in collegamento con noi, lo ringraziamo, Lorenzo Consoli, corrispondente a Sky News a Bruxelles. Buonasera Lorenzo. Buonasera. Lorenzo, è un'ecatombe per la Puglia, tu tra l'altro sei anche pugliese, insomma. Sì, io sono salentino, sono di Brindisi, che è a nord, diciamo, del territorio del Salento, propriamente detto, in cui poi ci sono gli ulivi affetti da questo batterio, da questa malattia. Perché ecatombe? Si parla di abbattimento di 1 milione di ulivi. Il 10% di quelli attualmente presenti nel Salento, ma un milione di ulivi, cioè parliamo di alberi che sono un po' l'identità veramente regionale, non solo salentina ma di tutta la Puglia, e fanno parte della storia, della cultura, del paesaggio ovviamente. Pensare di abbattere 1 milione di ulivi in quella campagna è qualcosa che immediatamente colpisce chiunque l'abbia vista, non solo chiunque ci è nato come me. Con un danno economico, tra l'altro, Lorenzo, enorme. Un danno economico enorme, perché l'olio d'oliva è una delle risorse della Puglia da sempre, praticamente, da quando ci sono le attività economiche in Puglia, dall'epoca della Magna Grecia. E oltretutto la Puglia è la regione che ne produce di più in Italia, in termini quantitativi. Ultimamente, fra l'altro, c'era stato anche un miglioramento qualitativo notevolissimo, seguendo un po' la parabola che c'è stata anche con il vino della regione in Puglia. C'è stato un miglioramento qualitativo Quindi questa è una mazzata, insomma. Senti Lorenzo, mi ha colpito un'altra cosa del tuo tech d'agenzia. Tu dici che è in corso anche un'inchiesta della magistratura per appurare se questa xylella sia stata introdotta da qualcuno in modo colposo o doloso, quindi c'è anche questa possibilità. Sì, è questo uno degli elementi su cui la Commissione dovrebbe riflettere prima di andare in modo precipitoso a proporre questa misura, questa di abbattere tutti gli ulivi malati, abbatterli e sradicarli, che è una misura, fra l'altro, bisogna dire, a cui l'Italia non si è opposta, l'Italia è d'accordo, il governo italiano. Questa cosa mi lascia molto perplesso, come lascia perplessi tanti miei amici agronomi o persone che comunque vivono anche nella zona, perché appunto Intanto c'è questa inchiesta della magistratura che spiega che non è così semplice, non si tratta semplicemente di un batterio apparso chissà come per fatalità, potrebbe esserci del dolo, ci sono degli interessi molto forti, ci sono degli interessi per esempio nel campo della speculazione edilizia, non è una cosa di molto tempo fa, un articolo che fu anche molto diffuso sui social media concernente un investimento che doveva essere fatto da un investitore britannico per creare un resort in Salento, e questo investitore aveva accusato l'Italia di avere troppa burocrazia e quindi se n'era andato indignato dicendo che non si poteva fare niente in Italia. Ora, la burocrazia era che non poteva tagliare gli ulivi. In Puglia, in Salento, non si possono distruggere gli ulivi sono assolutamente sacri, intoccabili. Bene, questo disastro della xylella creerà la possibilità, abbattendo 1 milione di ulivi probabilmente, per poter ricostruire laddove non si poteva. Allora, pensare che non ci siano degli interessi dietro un'operazione così grande, dici è difficile, quindi l'Italia dovrebbe un attimino riflettere, la Commissione... È possibile. Certo. Il fatto che ci sia un'inchiesta della magistratura comunque dimostra che non si tratta di cose campate in aria, siamo abituati al complottismo, però questa cosa è molto sentita in Puglia, in Salento, cioè, c'è molta gente che lo dice, qui ci sono degli speculatori pronti ad approfittarne. Speriamo di noi, speriamo soprattutto, Lorenzo, che si riesca a vigilare su questa cosa per evitare un ulteriore danno economico rispetto a quello che immagino il batterio abbia già prodotto. Noi ringraziamo Lorenzo Consoli, corrispondente Asca News a Bruxelles, per questi chiarimenti. Chiudiamo l'appuntamento europeo e ci aggiorniamo su Strade e Autostrade. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ultima parte di Effetto Notte, le notizie in primo piano oggi, a partire dalle tangenti del nuovo scontro tra Renzi e l'Associazione Nazionale Magistrati, del quale abbiamo diffusamente parlato prima. Bufera sul ministro Lupi, le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Manette a Bruxelles, oggi è finito il numero uno di Federacciai per le tangenti in Congo, ma lui nega. Duello all'ultimo voto in Israele, seggi chiusi da 48 minuti, testa a testa tra Netanyahu ed Herzog. Poco fa è arrivato anche l'esortazione del capo dello Stato ad un governo di unità nazionale. Landini incontra ma non convince la Camusso, niente ambiguità sulla politica, chiede la segretaria della CGIL. E poi c'è il sogno di Vendola, fra 2 mesi cambio vita e mi sposo, rifletto sulla paternità, queste le sue parole. Noi però adesso apriamo una pagina dedicata al maltempo, maltempo che sta interessando ancora una parte dell'Italia, in questo momento il sud, c'è massima allerta al momento in Calabria, per la precisione a Petilia, Policastro, dove ci sono state numerose frane che hanno portato all'evacuazione di oltre 80 persone, ma oggi è stato diffuso anche un video su YouTube e una storia che riguarda l'Abruzzo che ci ha molto incuriosito. La storia riguarda una famiglia che ha un'azienda agricola, Gioia, a Cellino Attanasio. Noi abbiamo in collegamento la signora, la donna di questa famiglia, mamma di 2 bambini, e la ringraziamo, si chiama Maria José Natili. Buonasera. Buonasera. Signora, io le faccio sentire un pezzettino del video che lei ha diffuso su YouTube, così poi lo commentiamo insieme, sentiamo. Siamo senza acqua da una settimana, abbiamo le capre, le mucche, i maiali, gli stiamo dando l'acqua sciolta della neve, i bambini non vanno a scuola da 3 settimane, prima ancora della nevicata, perché c'era stata una frana importante su una strada comunale, il sindaco non ce l'ha fatta, ha chiesto aiuto al prefetto, non ha avuto risposta però. Siamo completamente abbandonati, aiutateci. Queste dunque le sue parole. Signora, come mai ha deciso di pubblicare questo video su YouTube e cosa è cambiato dal video ad oggi? Allora, intanto il video è stato pubblicato domenica, abbiamo deciso di pubblicarlo perché, come avete sentito, la situazione era drammatica. Devo adesso approfittare per tranquillizzare tutti. Domenica stessa alla sera è tornata l'acqua. Noi adesso stiamo bene sia noi che gli animali e le strutture, e ci riteniamo fortunati. L'acqua e la luce è tornata, ma purtroppo la strada è franata e siamo isolati insieme ad un'altra azienda agricola di premio insediamento e un'altra famiglia. Per quanto riguarda la scuola, ci stiamo organizzando per portare a volte i bambini a piedi e sono anche ospitati a casa di amici che si sono offerti in paese. Cosa è cambiato? È cambiato che oggi è venuta la provincia a vedere la situazione della frana, questa sera è venuto l'assessore regionale all'agricoltura e domani speriamo che venga il genio civile, speriamo che riesca a rifare la strada. Signora, nel video che io ho visto si vede appunto lei con i bambini e poi dietro la frana, quindi voi insomma potete lasciare l'appartamento solo a piedi? Possiamo lasciare l'azienda agricola solo a piedi, sì. E quindi diciamo la frana poi continua, lei ha notato che continua ad andare avanti, si è fermata, c'è stata altra pioggia, cioè ci sono dei pericoli ancora imminenti? Allora, i pericoli, come ripeto, per le case e per noi abitanti non ci sono. Per quanto riguarda la frana, per fortuna sembra che stia smettendo di piovere. Una valutazione geologica della situazione io non sono in grado di farla. Certo. Quello che posso dire semplicemente è che noi siamo una fattoria biologica biodinamica con 60 capre, 5 mucche, maiali e api. La nostra attività produttiva è il caseificio che ha ripreso dopo il ritorno dell'acqua, ma dobbiamo uscire per vendere i nostri prodotti. Certo, non riuscite a portarli a piedi, certo. Allora, in questo senso volevo appunto approfittare per ringraziare tutte le persone, soprattutto i gruppi di acquisto solidale che noi formiamo e di cui noi abbiamo creato uno, qua in Abruzzo ce ne sono tanti. Loro si sono offerti, molti di loro si sono offerti per venire sabato ad aiutarci a portare i prodotti fino alla macchina più vicina in su in alto, in modo tale da essere presenti al mercato contadino a Teramo, dove siamo ogni sabato. Bene, è stata una prova di solidarietà, non si è pentita di avere diffuso questo video, quindi? No, noi pensavamo di essere isolati e da soli, ma abbiamo ricevuto veramente tanto appoggio e dobbiamo ringraziare le persone, i gas e le autorità che sembra ci stanno dando una mano. Grazie Maria José Natili, perché poi l'Italia è un paese dalle tante polemiche, però per fortuna riusciamo a fare anche delle cose positive come il sostegno a questa famiglia isolata. Noi siamo in chiusura, non prima di avere nuovamente fatto gli auguri al nostro Dario Ricci in collegamento e ci facciamo anche dire ovviamente come stanno le due partite di Champions. Sono concluse? Sì, conclusi i primi tempi, Anna Rita, siamo a inizio della ripresa. A Madrid, Atletico sempre in vantaggio quando siamo al 49esimo per 1-0 sul Bayer Leverkusen. Ricordiamo al 26esimo la rete di Suarez, una conclusione deviata da un difensore tedesco. Risultato che pareggia l'1-0 ottenuto dal Bayer all'andata in Germania, quindi dovesse finire così ci sarebbero minimo i supplementari. È cambiato anche il risultato nel principale di Monaco, dove l'Arsenal è passato in vantaggio sul Monaco 1-0, la rete in questo caso di un francese che però gioca con l'Arsenal, Giroud, l'attaccante Giroud. Siamo al 52esimo, ma il Monaco che è ancora forte del 3-1 ottenuto a Londra all'andata. L'Arsenal a questo punto servono ancora due gol, staremo a vedere. Dario, voglio farti però un'altra domanda, perché c'è la Juventus invece che si prepara un impegno importante, no? Sì, domani è la giornata della Juventus, perché a Dortmund contro il Borussia i bianconeri devono difendere quel 2-1 ottenuto all'andata a Torino per conquistare i quarti di finale. Non sarà chiaramente facile, Borussia squadra esperta con un grande pedigree europeo, tra l'altro buona parte del quale costruito nelle sfide proprio contro la Juventus. E poi c'è il Westfalen Stadium, Anna Rita, lo ricorderai, perché è lo stadio in cui vincemmo quella straordinaria semifinale mondiale contro la Germania padrona di casa nel 2006, prima di laurearci campioni del mondo a Berlino. Ecco, vincere in quello stadio, che è uno dei templi del calcio mondiale, è qualcosa di eccezionale. La Juventus nella sua storia l'ha già fatto e il popolo juventino gradirebbe un bis domani sera. Staremo a vedere allora. Intanto ringraziamo il nostro Dario Ricci e con lui concludiamo la puntata di oggi di Effetto Notte, appuntamento che si rinnova domani sera. Intanto restate con noi, tra poco gli aggiornamenti di GR24.